L'ultimo bollettino mensile sulle forze lavoro, quindi occupazione e disoccupazione dell'Istat, segnala quello che succede appunto nel mese di ottobre. Il problema però appunto che sebbene l'Istat ci dica che aumenta un po' l'occupazione e la disoccupazione di fatto diminuisce soltanto perché aumentano poi a fianco gli inattivi, ovvero sono meno persone che non hanno lavoro ma che smettono anche di cercare lavoro, il quadro se lo andiamo ad allargare in termini temporali, quindi anche sul trimestre e sull'anno diciamo del 2018 che si è appena concluso, il punto della dinamica del mercato del lavoro è abbastanza stabile con quella che abbiamo attraversato negli ultimi anni, ovvero il lavoro che aumenta complessivamente, aumenta soltanto lavoro a termine e aumenta sì più o meno in quasi tutte le fasce della popolazione, una volta che i dati in qualche modo vengono puliti anche dalla dinamica demografica, ovvero quanti giovani ci sono e quanti più over 50 ci sono, ma è vero che in termini assoluti sono sempre comunque gli over 50 a diciamo, occupare, essere sempre più occupati rispetto all'intera popolazione attiva. Per quanto riguarda la disoccupazione, questa relativamente scende di poco e diminuiscono anche gli inattivi, quindi questo significa che effettivamente un po' più di persone stanno trovando un'occupazione, sebbene rimanga sempre un'occupazione abbastanza precaria. Quindi diciamo che le dinamiche, chi cerca in qualche modo di trovare quello che è successo anche a causa del decreto dignità, quindi l'ultima riforma del lavoro, non trova dei grandi salti o dei grandi cambiamenti rispetto a quella che invece è una dinamica abbastanza ormai strutturale, diciamo, del mercato del lavoro in Italia, che però appunto non soltanto l'Istat, ma tempo fa, in realtà a dicembre, l'ultimo outlook da parte dell'OCSE ci ricorda una cosa sostanziale, che in Italia uno dei problemi maggiori dell'occupazione non è soltanto la precarietà, quindi il tempo di durata dei contratti e la rotazione dei lavoratori, ma è anche la questione salariale. Cioè, in Italia i salari non aumentano e quando aumentano di poco sono sempre, diciamo, degli aumenti, degli incrementi abbastanza inferiori rispetto a quelli che sono invece caratteristici della media europea, diciamo. Sì, infatti, per esempio, diciamo, il rapporto Istat dice che a essere calata la disoccupazione è soprattutto per le donne e i giovani tra i 15 e i 34 anni, il che supporta effettivamente l'idea che siano poi andati a ingrossare le file degli inattivi, nel senso che la speranza, diciamo, è l'ultima a morire, però donne e giovani tra i 15 e i 34 non sono quelli per cui sta andando meglio, diciamo, nel mondo del lavoro. Beh, no, non può andare meglio perché un mercato del lavoro che comunque è depresso penalizza, no, ovviamente le fasce più deboli, ovvero le code, se vogliamo, marginali di questo mercato, quindi rigettandole, cioè, periodi, diciamo, più lunghi di disoccupazione, che di questa transizione tra il lavoro e il non lavoro, ma soprattutto tra il non lavoro e l'inattività. Parlando di lavoro e di appunto problemi nell'accesso al lavoro, però poi ci sono anche offerte di lavoro abbastanza ridicole. Tu di recente ne hai condivisa una su Facebook. Sì, vabbè, una delle ultime, in realtà, segnalazioni del genere ne sono tante. Quella che ho condiviso era alquanto esilarante, ma uso questo termine che è davvero un eufemismo, perché di fatto offriva a un praticante già abilitato, come un giovane laureato in giurisprudenza che ha già fatto il praticantato ed è abilitato anche ad andare in qualche modo in tribunale, e così via, un posto con rimborso spese da 300 euro al mese, quindi per lavorare effetti come un dipendente, perché ormai è una persona abbastanza formata e anche in qualche modo, no, con esperienza lavorativa, sebbene iniziale, ma soprattutto è un annuncio di lavoro, tra l'altro pubblicato da uno studio di avvocati di Roma a Prati, quindi un quartiere bene, è sul sito proprio della, se non sbaglio, era proprio gli avvocati di Roma o una roba del genere, in cui si diceva: no, perdi tempo e non sognatori. Ora, in un certo senso, come dire, delle parole che forse sono state buttate lì a caso, in realtà rivelano molto della psicologia nei confronti dei lavoratori e appunto di deve andare poi a lavorare da parte di chi assume, quindi sempre solo dei datori di lavoro, quindi quasi uno sfregio nei confronti, ma effettivamente poi anche il realismo, dicendo sognatori, perché con 300 euro puoi sognare forse la fame, perché insomma non è che ti puoi permettere sogni tranquilli. E poi sì, insomma, questo è un esempio, ce ne sono molti altri, ma e poi il problema sta che tutto questo è legale, cioè, come dire, loro se lo possono permettere perché la legge italiana non obbliga a un salario minimo, non obbliga a pagare dignitosamente, soprattutto non soltanto in termini monetari, ma anche i diritti di lavoratori, quindi si possono permettere il bello e il cattivo tempo sulle nostre spalle, ma direi anche sulla nostra pelle. Sì, infatti mi ricordo in realtà che c'è stato forse un periodo in cui ne condividevi veramente tanti di questi annunci, no, non per perditempo o per sognatori. Adesso non me li ricordo di preciso, ma ricordo di averne visti di Sì, molto no. belli nella loro bruttezza, diciamo. Esatto, ce ne sono, e poi però ovviamente non è che si dà spazio, poi pensiamo anche, no, come va l'informazione su questo. Questi giorni appunto c'è, cioè, questo annuncio, ma ce ne sono tanti altri e non hanno nessuna risonanza, se vogliamo, a livello nazionale e mediatico. Poi arriva il solito imprenditore di turno che ti dice: ma non trovo gli operai perché comunque nessuno vuole fare le trasferte, no? O inquadrati come metalmeccanici, che guadagnano poco al netto poi del rimborso rimborso spese, che è un extra, perché extra è anche il lavoro, e allora paginare sul Corriere della Sera, interviste, affinito un posto e così via, come sempre, no? Si vuole dare un tipo di rappresentazione e non un altro, cioè comunque continuiamo sempre a vivere dentro, se vogliamo, quel framework che noi ci ricordiamo con la Fornero, ma che viene anche da prima, del alla fine se non lavorate è perché siete dei ciusi, siete degli schizzinosi, no? Perché chi ci vuole andare a lavorare 8 ore al giorno e forse di più per 300 euro al mese? Il problema è che chi lo dice non ha mai lavorato per 300 euro al mese. Sì, insomma, diciamo che in generale poi la narrazione su questi temi un po' si spreca, nel senso che appunto dall'idea dei giovani che non vogliono lavorare a quella degli italiani mammoni, quando in realtà magari il problema è più una mancanza di stipendio, appunto per avere una propria indipendenza economica c'era stato l'episodio dell'andarsi a cercare lavoro nelle partite di calcetto. Ma secondo te, un'ultima domanda, cioè quanto ha influenza poi questo tipo di retorica sul fatto che non si facciano e forse non si chiedano abbastanza, diciamo, nel senso che c'è chi le chiede, però delle politiche sul lavoro che invece siano effettivamente positive, diciamo, cioè secondo te è un riflesso o invece ha anche poi un effetto questo tipo di comunicazione? Ma diciamo che è tutta una questione poi quella dell'organizzazione, della rivendicazione politica un po' più complessa, cioè viviamo effettivamente in una società molto frammentata e dove i giovani non hanno altre alternative, dicono 400 euro o niente. Il problema è che non c'è nessuno che dice oggi con lo slancio davvero di dignità politica, ma no, cioè esiste un'alternativa e dobbiamo andare a bussare davanti a determinate porte, quindi siano la politica o che poi siano proprio i luoghi di lavoro, siano le vertenze individuali o collettive. È vero che è difficile organizzare ciò che è frammentato, perché non è impossibile, questo lo vediamo proprio in dei settori, diciamo, molto marginali, se si pensa, no, in termini proprio di qual è l'immaginario operaio, cioè abbiamo visto che l'aereo, lo vediamo con la logistica e così via. L'importante, in qualche modo, come dire, la leva è sempre avere uno l'idea politica, che appunto, cioè, secondo me, alzare i salari in Italia e cominciare a parlare di salario minimo, a che se ne dica, che ne dicano anche i sindacati, è una cosa non rinviabile, e dall'altro lato però fare proprio organizzazione trasversale a tutte queste fasce lavoratori, perché voglio dire, sulla questione dei salari non si prende solo una categoria, quindi non è neanche uno scopo corporativo di nicchia, cioè è una roba che investe molte categorie, molte professioni, ormai se vogliamo anche anagraficamente non soltanto i giovani, appunto, che mettono le donne in qualsiasi età, ma anche, diciamo, quelli che sono stati precisamente espulsi dai luoghi di lavoro e poi, se vogliamo, no, riassunti con contratti più precari, con salari più bassi e così via, è una scelta di volontà politica e di organizzazione collettiva. Impossibile non è, però, ecco.